Radio 24 Reportage. L'Europa nel ventre di Napoli, di Raffaella Calandra. Dicono che nelle due città gemelle non ci sia più modo di sapere quali sono i morti e quali i vivi. Dicono che i viaggiatori di mezza Europa nell'Ottocento, una volta ubriachi di luce e limoni, è nel ventre della vecchia Serena che cercassero le tracce della più antica storia. E laggiù, nel sottosuolo di Napoli, oggi scendono sempre più turisti, richiamati dall'eco della città tufacea, possibile candidata in futuro ad entrare nel patrimonio dell'UNESCO e già unica metropoli fotografata nelle viscere nella mostra in 3D di speleologi internazionali dell'associazione La Sal. Per l'Italia c'è Luca Cutritta. Noi ci siamo concentrati soprattutto su quelle strutture, che siano esse acquedotti, piuttosto che cisterne pluviali, piuttosto che ricoveri antiaerei risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, presenti nel sottosuolo di Napoli. Quindi avete attraversato le vecchie cisterne di epoca greca, gli acquedotti romani fino a quelli borbonici del centro storico appunto di Napoli. Assolutamente sì, abbiamo fatto un viaggio nel tempo partendo da 2000-2400 anni fa circa. Sì, in mezza Europa e poi anche in altre parti del mondo sono state fotografate cavità naturali, bellezze naturali. Napoli è l'unica città che è stata fotografata nel centro della metropoli vista dal di sotto. Ecco, tutto questo anche perché il sottosuolo di Napoli da tempo è una meta anche, diciamo, leggendaria, mitica. Nei secoli passati chi faceva i famosi viaggi in Italia aveva in mente anche le suggestioni di ciò che emergeva da questa città tufacea come Napoli. Napoli è sempre stata meta europea, da tutta Europa, quindi di un turismo di gran classe, dove poi si prediligevano anche delle mete un po' insolite. Tra queste, dato che, ironia della sorte, un po' di tempo fa era più studiato il sottosuolo napoletano, non era raro leggere dei trattati che parlava di delle cisterne, dell'architettura sotterranea, per cui talvolta diventava vera meta di un turismo molto molto molto particolare. L'Europa ancora oggi un po' sottovoce in verità ne parla. A lei capita di accompagnare i suoi colleghi nel sottosuolo napoletano, anche stranieri? Ci racconta un po', certo. da dove arrivano? Un po' da tutto il mondo. Ad oggi abbiamo portato australiani piuttosto che nordamericani o sudamericani, britannici, islandesi, spagnoli, francesi, abbiamo anche russi, dove comunque c'è un'affinità perché anche loro hanno un bel patrimonio ipogeo metropolitano almeno. E ci sono molti speleologi che affiancano anche la città di Napoli a quella di Parigi. Parigi, il mio modesto parere, è da considerarsi un po' la sorellina minore di Napoli, perché anch'essa ha un patrimonio ipogeo urbano molto esteso, anch'esso ha degli ossari, così come il nostro rinomatissimo cimitero delle Fontanelle e più altri, però è molto molto più in piccolo, scavate in rocce diverse. Napoli dobbiamo ancora studiare parecchio, perché ad oggi è stato censito circa il 50-60% di quello che abbiamo sottoterra. Però nel frattempo c'è anche un progetto per avere dei riconoscimenti, anche di status per il sottosuolo napoletano. Ci spieghi in cosa consiste e a che punto è? Le stesse persone che hanno avuto la fortuna anche dall'estero di visitarlo portano un po' il nostro vessillo fino a far arrivare praticamente una proposta, che per ora rimane solo una proposta verbale, di tutelare il patrimonio ipogeo napoletano come UNESCO. Questo che vedete a terra si chiama forma, si definisce così perché assume la forma del corpo stesso. È più stretto e più... Rione Sanità, scesi un centinaio di gradini tra giardini segreti e strati sovrapposti, ha attutito il vocio di una delle zone più popolose e progressivamente allontanato anche il ricordo dei fatti di cronaca nera, si arriva nella più antica basilica ipogea, le catacombe di San Gennaro, in uno di quei quartieri della città di sotto che Napoli ha sempre continuato a frequentare, e ora anche i visitatori sempre più spesso si infilano in queste budella piene di storie, frequentate soprattutto nelle giornate del Fondo Ambiente Italiano, come quella di oggi. Qui il FAI ha provato che si possono recuperare le bellezze del patrimonio e allo stesso tempo quelle dei suoi residenti, come dimostra la sfida di Don Antonio Loffredo. Avevo tante chiese, tante basiliche, tante catacombe da dover gestire, e o mi affidavo ai giovani o dovevo chiudere ogni cosa? Ormai ben 30 ragazzi nelle tre cooperative lavorano stabilmente. Nelle catacombe del Rione Sanità. Quartiere cuore della città, che è stato ferito dalla costruzione di un tremendo ponte nell'Ottocento. E il turismo ci è sembrato l'unico modo per aprire un ghetto. La sanità è ricchissima di questo articolato e complesso sistema sotterraneo, che è fatto di cave, è fatto di catacombe, è fatto di cimiteri ellenici, di cimiteri ottocenteschi come il Cimitero delle Fontanelle. Chi sono questi ragazzi che lavorano con voi? Sono ragazzi del quartiere? Sono ragazzi normalissimi del quartiere, che avevano la classica allergia alla scuola come tutti i ragazzi del mio quartiere. Dovevano scriversi il loro futuro e l'hanno scritto sulle opere d'arte. Quest'anno i 150 anni dell'Unità d'Italia passa anche attraverso il recupero di quella storia lì. Il contributo grande che vorremmo dare al 150esimo dell'Unità è il fatto di essere autostrada per il Nord Africa. Se io penso alle mie catacombe, non posso non pensare a Quod Ultra Deus, a Gaudioso, profughi di Cartagine che vengono accolti a Napoli nel V secolo. Storia di accoglienza che, viste le ultime vicende internazionali con la crisi del Nord Africa, si impone di nuovo come prioritaria. Io penso che il resto della nazione e l'Europa stessa non deve abbandonarci in quest'opera che ci ha caratterizzato da secoli. Ripeto, quando penso alle mie catacombe, penso agli utensili, penso alle terracotte che noi all'epoca importavamo soltanto dal Nord Africa. È bello che in questo quartiere riesce ad assorbire la metà dei posti per le persone che sono in strada. La cronaca più recente si mescola con la storia più antica, qua giù, sotto le gonne della sirena, mentre giovani musicisti del quartiere portano a nuova vita quello che fu un luogo di culto, sepoltura e arte, unita come il DNA dei popoli arrivati nei secoli in questo golfo, e altri ora si attendono, anche dalle coste nordafricane, dove c'è una guerra che in linea di principio lo storico francese Marc Fumaroli, accademico e professore al Collège de France, non condivide mai. Non si fa la guerra, c'è stata un'eccezione in Jugoslavia, al mio parere era un grande errore, ma in generale l'Europa è fondata su questo principio. È stata sufficientemente difesa anche la cultura italiana nei suoi vari aspetti? L'unità dell'Italia è stata fatta sul modello francese, ma penso che anche dopo dell'Italia, la diversità dell'Italia si è mantenuta. Si vede qui che a Napoli siamo in un mondo che ha la sua identità fortissima. Quindi secondo lei il federalismo farebbe bene anche al sud? Farebbe bene anche all'Europa. E la Prussia, la Franconia, la Olanda, la Francia, la Spagna hanno tutto un'anima molto diversa. La sola soluzione è il federalismo. Come trova lo stato di salute dell'arte napoletana? Vengo a Napoli da 30 anni o anche forse da 40 anni. Il progresso è immenso. Hanno riscoperto, riparato tanti e tanti monumenti, e Napoli è così ricca di bellezze o di arte ignoto che naturalmente c'è ancora un mezzo secolo di lavoro per fare di Napoli il punto di riferimento turistico che deve divenire, perché è uno dei punti più ricchi e più belli del mondo. Luci, fioche illuminano affreschi antichissimi in quelle che erano le sepolture dei più ricchi. Sottoterra, tra le catacombe, resi accessibili a tutti grazie a un percorso di pedane, camminano i turisti con occhi pieni di stupore, come già nell'Ottocento capitava ai viandanti europei e poi ai tantissimi qui approdati dall'America, dove non è mancata anche l'eco delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ricorda David Friedberg, docente della Columbia University. Il pubblico americano non sapranno molto sulla storia. Il pubblico americano si interessa ai più alti prestigi culturali dell'Italia. E questo è il momento per dire come l'Italia era innovativo. Il vero problema è la mancata attenzione ai monumenti. Ovviamente c'è un altro problema delle sovvenzioni. Ovviamente in Italia abbiamo un grande problema, ci sono tanti monumenti. Dunque ci vuole una presenza attenta, saggia, nel Ministero dei Beni Culturali adesso, per sapere come allocare i fondi, e ci vuole più attenzione, io direi, da Tremonti a come dividere i pochi soldi che sono nel budget. La bellezza dell'arte qua sotto, come queste catacombe, e il degrado dell'abusivismo lassù, forte in questo centro storico partenopeo, il recupero delle vestigia storiche come tutta la Napoli sotterranea e i crolli dovuti agli abbandoni come quello di una villa vesuviana o prima della Domus di Pompei. Da questi ossimori di Napoli e dell'Italia intera è partita anche la sfida del FAI, invertire la rotta e risvegliare la brace della sensibilità verso il patrimonio storico da sotto la cenere. Il presidente Ilaria Borletti Buitoni. Essere orgogliosi del proprio paese, essere orgogliosi delle proprie radici, significa essere orgogliosi della cultura italiana, che è la nostra identità e che è quello che ci viene riconosciuto dall'estero. Se noi siamo stati dei grandi protagonisti della cultura occidentale, non solo in Europa ma anche in altre parti del mondo, lo dobbiamo proprio a quei temi culturali che sarebbe bene tirar fuori in occasione dell'anniversario e farne un motivo di orgoglio. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.